Volevo chiederle, perché voi siete sì. di San Marco, vero? Sì. C'è uno spirito di Lizzana, io sono da Cagliano. Mamma c'è uno mia. Spirito di Lizzana. Questo qua tocchi un tasto nevralgico proprio. Fra Lizzana e Marco c'è sempre stato un antagonismo e un campanilismo feroce. Negli ultimi anni si è assopito chiaramente, perché però io ho 65 anni da bambino, il nostro nemico era il Marcolin, quello da Marc proprio, Marcolin Sassini era il detto, ecco, sì, ma era un campanilismo comunque che caratterizzava un po' tutte quante le realtà locali. C'è una caratteristica di Lizzana rispetto alle altre comunità intorno? E fino a qualche anno fa era l'associativismo, e Lizzana è sempre stato una foriera di cooperative, tante associazioni, a partire, che ne so, degli Amici Rosugna, la cooperativa, famiglia cooperativa che era fatta da soci di Lizzana, e poi altri punti di aggregazione, quello sì, quello ci ha sempre contraddistinti, sia nei confronti dei rioni, dei dintorni, ma anche nei confronti di Rovereto. Stiamo lavorando, no, sui suoni, i rumori di Lizzana con loro, si ricorda alla loro età che suoni c'erano, che rumori c'erano in paese? Allora, più silenzioso, anche adesso silenzioso, e all'epoca mia mancavano i suoni, i rumori, eccoci, della zona istriale.